GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. La 28esima di A era il banco di prova per l'Inter, pressata dalla Roma e chiamata a reagire dopo il KO con Liverpool in Champions e la bufera sollevata da Mancini. Ebbene, esame superato, seppur con qualche affanno, dai nerazzurri che battono 2-1 il Palermo a San Siro e mantengono i 6 punti di vantaggio sui giallorossi. Il tecnico nerazzurro a Sky Sport. Abbiamo fatto una grande partita, secondo me, nel primo tempo, dove avremmo dovuto segnare più di 2 gol. Nel secondo tempo abbiamo concluso, secondo me, un po' poco, anche se non abbiamo mai rischiato niente. Però sono partite che, se poi non le chiudi, devi soffrire fino in fondo, perché comunque poi il loro gol è venuto fuori da un rimpallo. Sarebbe stato importante fare un altro gol per poter viverla un po' più serenamente, ecco. Mercoledì, nel turno infrasettimanale, l'Inter sarà a Genova contro i rossoblù, la Roma affronterà la Lazio nel derby. Intanto in zona Champions, Juventus e Fiorentina vincono e allungano sul Milan. Un gol di Iaquinta nel finale regala ai bianconeri l'1-0 sul Napoli. Claudio Ranieri. La partita era giocata bene da tutte e due le squadre, dovevamo noi essere un pochettino più veloci e più diretti nel primo tempo. Quando servivamo le punte o Nedved erano sempre troppo chiusi. Nel secondo tempo ho chiesto appunto di verticalizzare un pochino di più, di trovare di più le punte, e poi ho fatto entrare Molinaro e Iaquinta. I Viola superano invece per 3-1 il Genoa, il tecnico Prandelli. Le prime occasioni non hanno avuto loro, poi nel momento che siamo andati in vantaggio abbiamo giocato bene per 50 minuti, abbiamo giocato molto bene. Poi un po' gli infortuni, un po' la stanchezza, e poi quando siamo rimasti in 10 abbiamo sofferto fino alla fine. Però cosa vuoi chiedere a questi ragazzi? L'allenatore in quei punti lì non può fermare l'esuberanza e la generosità di questa squadra. I successi di Regina, 4-0 sul Siena, e Cagliari, 3-0 sul Torino, infiammano la zona salvezza, dove vengono risucchiate anche l'Empoli, battuto 4-1 a Bergamo dall'Atalanta, e il Catania, superato 3-1 in trasferta dalla Sampdoria. Primo punto per Hector Cooper sulla panchina del Parma, per gli emiliani 1-1 a Livorno. Per la Formula 1 parte male il Mondiale 2008 per la Ferrari, doppio ritiro per le rosse a Melbourne nel Gran Premio d'Australia vinto da Hamilton su McLaren davanti a Heidfeld e Rosberg. Raikkonen conquista comunque un punto grazie alla squalifica di Barrichello. Guasto tecnico anche per Felipe Massa. Una gara così non ci aspettavamo da sempre, da tutto il lavoro che abbiamo fatto non era assolutamente previsto un inizio così. E sul Gran Premio australiano il commento di Mario Poltronieri. Diciamo subito che la Ferrari è competitiva. Purtroppo non è stata affidabile in questa corsa e secondo me ha avuto anche 2 piloti che non erano all'altezza della situazione, nel senso che Raikkonen ha dimostrato un certo nervosismo rispetto alla freddezza che ci si aspetta da un campione del mondo finlandese. Quanto a Massa, direi una foga e un'esuberanza che comincia a essere preoccupante. Per il basket, decima di ritorno che ha visto le vittorie della capolista Siena e delle sue immediate inseguitrici Roma, Montegranaro e Avellino. Successi anche per Cantù, Teramo, Udine, Capodorlando e Fortitudo Bologna. Per la pallavolo, nella nona di ritorno, la capolista Trento passa anche a Taranto, mentre Piacenza sbanca Roma. Vincono anche Corigliano, Montichiari, Perugia e Latina. Stasera Treviso Cuneo. Prime medaglie azzurre ai campionati europei di nuoto di Eindhoven in Olanda arrivano dal sincronizzato. Bronzo di Beatrice Adelizzi nel singolo, argento per la squadra azzurra dietro alla Spagna. E chiudiamo con l'atletica. Oltre 60.000 ieri partecipanti alla Maratona di Roma, tra i professionisti vittoria per il keniano Yego e la russa Bogomolova. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport a partire dalle 14. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.